La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato all'interdipendenza tra gli squilibri economici e gli eventi politici, analizzato nel libro edito dalla Terza Banchieri, politici e militari, passato e futuro delle crisi globali, di Innocenzo Cipolletta, oggi ospite ai nostri microfoni. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Le guerre, le grandi recessioni economiche, le crisi globali, recenti e passate, non sono mai frutto del caso. C'è una strettissima interdipendenza tra gli squilibri economici e gli eventi politici che le preparano o ne sono la conseguenza, tra i periodi di massima espansione dell'economia e i cambiamenti che intervengono sullo scacchiere politico internazionale. In poche parole, scrive Innocenzo Cipolletta, nel libro Banchieri politici e militari passato e futuro delle crisi globali, pubblicato in questi giorni dalla Terza, politica ed economia sono intimamente legate tra di loro. Gli economisti possono proporre i migliori modelli e le migliori soluzioni tecniche, che però saranno largamente insufficienti a evitare crisi sistemiche se il mondo, scrive Cipolletta, continuerà a essere in squilibrio e se questo squilibrio sarà il prodotto di azioni militari. Il libro è stato presentato domenica scorsa a Trento nell'ambito del Festival dell'Economia. Quel che è avvenuto con la crisi globale finanziaria del 2008 è già avvenuto, seppur con modalità diverse. Ad esempio, quando scoppiò la crisi petrolifera del 1973, seguita dalla recessione del 1974 e 1975. Anche allora il mondo era in preda agli squilibri. Anche allora gli Stati Uniti vivevano al di sopra delle proprie possibilità e avevano debiti interni ed esterni. Anche allora vi furono squilibri nei mercati delle materie prime, dell'oro, del petrolio. Saltò il sistema dei cambi fissi e i paesi si divisero tra quanti svalutarono la loro moneta ed entrarono in una fase negativa e quanti la rifiutavano ed accumulavano riserve attraendo capitali. Anche quella del petrolio fu una crisi globale perché scaturì da un sistema economico internazionale squilibrato e scosso dalla fine del sistema di Bretton Woods. Quella crisi generò una recessione che per la prima volta dal dopoguerra fece cadere il reddito nella maggior parte dei paesi industriali. Sia ora come agli inizi degli anni 70 del Novecento, gli Stati Uniti uscivano da forti impegni militari. Alla vigilia della prima crisi petrolifera, ricordiamo che gli Stati Uniti erano ancora impegnati nella guerra del Vietnam con un forte contingente militare. Alla vigilia della crisi del 2008 erano nel pieno della guerra al terrorismo internazionale, con truppe in Afghanistan e in Iraq. E che dire poi di una guerra da molti dimenticata, vale a dire la guerra di Corea del 1950-1951. Pochi ricordano che quella guerra, conclusasi con 1,5 milioni di morti, comportò ingenti spese militari e un sensibile rialzo del prezzo dell'energia e delle materie prime, con conseguenze sull'intera economia mondiale. Una crisi che in molti paesi venne assorbita nello sforzo generale di ricostruzione del dopoguerra. Poi seguirono gli anni della Guerra Fredda. Il mondo occidentale, democratico, ad economia di mercato, e quello comunista, ad economia pianificata, si contendevano l'influenza sui nuovi paesi liberati dai vecchi domini coloniali. Una delle tesi del libro di Cipolletta è che la sequenza di guerre, debiti e recessioni che si è ripetuta ciclicamente nel secondo dopoguerra indica che la soluzione dei problemi economici del mondo non potrà essere individuata se contemporaneamente non saranno risolti anche i problemi internazionali. Buonasera, professor Cipolletta. Buonasera. Innocenzo Cipolletta, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, economista e presidente dell'Università di Trento e presidente di UBS Italia, tra i suoi incarichi più recenti quello di presidente delle Ferrovie dello Stato. Allora, la stretta indipendenza tra le guerre, le recessioni, le crisi del debito e gli squilibri politici internazionali. Questo è, come dire, il tema portante del suo libro. Ma come se ne esce? Ma se ne esce innanzitutto cominciando a riflettere su quelli che sono gli squilibri mondiali e le cause che le hanno determinato. Se è una guerra, come è il caso di queste ultime vicende che noi stiamo vivendo, bisogna farsi carico anche banalmente dei costi della guerra, se uno vuole continuare la guerra, e evitare che i paesi vadano in un squilibrio profondo, perché gli squilibri poi si pagano a termini di recessioni violente, i cui costi sono maggiori di quelli che uno poteva immaginare semplicemente perché hanno finanziato una guerra. Questo è un po' l'insegnamento, io credo, che dobbiamo trarre da queste vicende. Quando nel 2001 gli Stati Uniti d'America sono entrati nella guerra al terrorismo dopo il drammatico attacco alle Torri Gemelle, lo hanno fatto come se la guerra non costasse nulla. In realtà hanno provocato uno squilibrio generale, e la crisi che noi stiamo pagando adesso è un po' il costo anche di questa guerra che abbiamo affrontato, e quindi a mio avviso bisogna fare attenzione anche a questo aspetto economico, cioè la ricaduta della guerra in economia. A proposito dei costi della guerra, lei propone una tassa in caso di impegni bellici. Noi che abbiamo una certa età ci ricordiamo l'opposizione alla guerra del Vietnam. Questa nacque soprattutto dalle madri che vedevano i loro figli che partivano a fare una guerra che non conoscevano, che non comprendevano. Poi furono gli studenti a ribellarsi e l'opinione pubblica voltò fino a che tutti furono contrari alla guerra. Dopo quel periodo tutti siamo passati a eserciti di professionisti, il che è un bene, significa che abbiamo rinunciato alla coscrizione obbligatoria, però questo significa anche che la guerra sembra non avere un prezzo, sono gli altri che vanno in guerra, sono le persone che sono state professionalmente educate a affrontare questo problema. Ci dispiace moltissimo, quando muoiono sono martiri, sono eroi, però sono pur sempre persone che hanno scelto quel mestiere, nessuno di noi si sente colpito, e quindi guardiamo con più distacco alla guerra, che invece è un fatto drammatico. Allora mi sono domandato e mi domando se magari, visto che le guerre costano e che quindi bisognerà spendere, se quando si entra in guerra un paese, per farlo, chiede ai propri cittadini di contribuire attraverso una tassa, da un lato se i cittadini accettano non ci saranno gli squilibri, ma potrebbe anche essere che i cittadini, per mettere la mano al portafoglio, cominciano a pensare se veramente vale la pena entrare in guerra, e forse potrebbe evitare qualche guerra, il che non sarebbe mica male. Ecco, a questo proposito, guerre e recessioni. Molto spesso le guerre hanno ingenerato gravi crisi economiche internazionali. A volte però le guerre sono anche servite a rilanciare l'economia, ad esempio a rilanciare l'industria degli armamenti. Quindi c'è una doppia lettura forse che si può dare di questo fatto, che comunque ha caratterizzato violentemente il nostro Novecento. Sì, sicuramente un tempo si diceva che le guerre erano fatte per motivi economici, anche per rilanciare tutta un'industria pesante. Questo è vero, era vero probabilmente prima dell'epoca dell'era dei consumi. Oggi le economie del mondo sono sostenute dai consumi delle famiglie, e quando c'è una guerra i consumi delle famiglie non è che crescano molto, anzi si distorcono. Anzi, quindi crollano. Crollano pure. Quindi io penso che questa molla sia venuta meno. Non nego che esistano settori, imprese che invece sono interessate. Però complessivamente l'economia cresce meglio ormai in tempi di pace che dopo una guerra, e questo è sicuramente un grandissimo traguardo che abbiamo raggiunto. A proposito di traguardi raggiunti, sicuramente l'Europa è un grande traguardo, faticoso traguardo, ma comunque è una realtà. Nella presentazione del suo libro lei si è detto assolutamente europeista, e tuttavia ha indicato per il futuro del vecchio continente non certo la strada della totale unità politica, come dire, a tutti i costi. Ad esempio, cosa accadrebbe se avessimo un solo Parlamento, un solo Primo Ministro? Sì, io credo che l'Europa è una vera innovazione, una innovazione istituzionale, che è il nuovo modo dei paesi di aggregarsi per superare il concetto di nazione, che ha svolto un ruolo importante nella storia dei nostri paesi nel corso degli ultimi due secoli, ma che sta esaurendo un pochettino la sua funzione. Ci rendiamo sempre tutti più conto che il mondo è globale, che siamo interconnessi, e quindi teoricamente noi dovremmo essere una sola nazione nel globo. Questa non solo è utopia, è probabilmente impossibile. Come immaginare una sola nazione nel globo con tante diversità e tante diversità proprio di reddito e di impostazione di cultura? La strada la sta delineando l'Europa, la costruzione di una istituzione che mette insieme nazioni che conservano al tempo stesso una certa autonomia, ma che delegano a un consesso più ampio alcuni poteri, ma non li delegano in maniera permanente, li delegano negoziandoli di volta in volta. questo sta costruendo una struttura, una istituzione che sembra irrazionale, perché evidentemente non funziona come una nazione. C'è la moneta unica, ma non c'è il ministro dell'economia, ci sta la banca centrale, ma non c'è un esercito europeo. Questa irrazionalità per me è il segno proprio dell'innovazione. Ogni innovazione è irrazionale proprio perché, essendo nuova, deve contraddire quelle che sono le organizzazioni precedenti. Ma se riflettiamo bene, ci rendiamo conto che questa innovazione è quella che ci potrà far uscire dalle difficoltà del mondo, nel quale bisogna costruire organismi internazionali dove i paesi si parlino, ma non abbiano la sensazione di essere dominati uno dall'altro. L'Europa è un'organizzazione che non avrà mai, secondo me, un corpo ben definito, è un progress continuo, un processo di continui aggiustamenti all'interno del quale però si riescono a ottenere dei risultati. Non è un caso che dopo questa grande crisi gli Stati Uniti d'America non hanno quasi riformato nulla del sistema finanziario e rischiano di ritrovarsi nella stessa situazione. L'Europa invece ha fatto già delle riforme, ha messo in campo degli strumenti di intervento internazionali, sta affrontando crisi sistemiche in alcuni paesi con delle difficoltà sicuramente, ma anche con delle potenzialità che altri paesi non hanno. Grazie professor Cipolletta. Grazie a voi.